Abbiamo dato un po' più di spazio alla sigla per rientrare, 8 e 28 minuti per questo giovedì mostra 3 ottobre. Siamo a Palazzo Roverella, in quel di Rovigo, sede espositiva da non perdere, da seguire. Del resto la rubrica in mostra dalla sua esistenza ha sempre dato a questo capoluogo polesano un rilievo, perché lo merita assolutamente. È fino al 26 gennaio e pensate che il protagonista per me è il più grande fotografo del Novecento, chiaramente il più grande fotografo, ecco, se vogliamo. Poi certo, quando si parla di Novecento oramai siamo nel 2024, per cui bisogna sempre stare attenti a fare questi proclami così assoluti. Ciò non toglie che per il mio gusto lo è, pur non essendo io un esperto di fotografia. Chiaramente, Anna, tu conoscevi Henri Cartier-Bresson? Sì, lo conoscevo di fama. Sì, neanche io sono... Mi sto acculturando, non sono ancora molto esperta, però lo conoscevo, sì. Beh, del resto è un nome fondamentale per quanto riguarda l'aspetto di immagine, di ripresa e, perché no, l'ispirazione con la pittura stessa. Lui ha dichiarato: in realtà io volevo fare il pittore. Poi questo si nota anche nelle immagini che a Palazzo Roverella ne danno espressione e immagine, come ho già detto. L'Italia, abbiamo parlato di due mostre, anche in questo caso due mostre dialogiche, e l'Italia diventa protagonista per i lavori di Henri Cartier-Bresson. E l'Italia, semplicemente così intitolata l'esposizione protagonista in questa parte in mostra, e troveremo, grazie al curatore Walter Guadagnini, un approfondimento che ci darà l'emozione di conoscere la stessa emozione che ha vissuto Henri Cartier-Bresson facendo questo viaggio in Italia. Non era solo, tra l'altro si è anche divertito, secondo me, in questo viaggio in Italia. Parlerò di alcune foto che sono decisamente emotivo, oltre che di sensualità, di divertimento, in compagnia dell'amico André Pierre de Mandiargues e la giovane poeta e scrittore. E soprattutto, e qui mi rifaccio al surrealismo che è presente a Magnani Rock, altra sede fondamentale per la nostra rubrica e non solo, e della sua compagna, la pittrice Leonor Fini. E dal surrealismo appunto la trovate, Leonor Fini, all'interno dell'esposizione di Mamiano di Traversetolo. Ecco, insieme a questi due amici in Italia, beh, direi proprio che si sono divertiti in questo viaggio, e ne abbiamo modo visivo anche di testimonianza nelle sezioni del viaggio di Henri Cartier-Bresson e l'Italia. Ecco, allora io direi di iniziare la nostra conversazione con Walter Guadagnini, che ci darà approfondimento appunto con una piccola parte di introduzione del perché del viaggio e del perché, come è stata vissuta l'Italia. Arriva Henri Cartier-Bresson, un nome che non ha bisogno di presentazioni, ma sicuramente di un approfondimento importante, sì. Arriva a Palazzo Roverella, prestigiosa sede espositiva che Radio Città Fujiko segue passin passino in ogni mostra. Siamo con il curatore Guadagnini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno e benvenuti a voi. Che mostra troviamo, con che peculiarità, a proposito del più grande fotografo del Novecento? Troviamo una mostra che racconta il più grande fotografo, quantomeno il più noto, poi lasciamo ad altri la decisione quale sia il più grande, ma sicuramente il più noto fotografo del Novecento lo troviamo in rapporto con l'Italia. Ed è curioso il fatto che Cartier-Bresson abbia girato il mondo, come sappiamo, perché molte delle sue foto più famose vengono dalla Cina, vengono dagli Stati Uniti, dalla Russia e via dicendo, ma in realtà lui è venuto un sacco di volte in Italia. Gli piaceva molto, glielo scrive anche Capa in una lettera, gli dice: vabbè, visto che ti piace tanto l'Italia, vai a fare questa cosa. E quindi comincia subito, da piccolissimo, negli anni 30, cioè poco più di 20 anni, e poi continua fino a quando abbandona la fotografia a metà degli anni 70. Quindi è una mostra che racconta da un lato l'Italia, dall'altro Cartier-Bresson nell'evoluzione della sua storia. E perché lui aveva questa fascinazione? Resta rapito, beh, è intuibile, però in che modo, ecco? ma lui resta rapito, direi, in diversi modi, nel senso che negli anni 30 in realtà sembra più rapito dal fatto di fare questo viaggio di conoscenza, credo anche di grande divertimento, assieme ai suoi amici, a Pierre de Mandiargue, che è un poeta, e a Leon Orsini, che era una pittrice, quindi credo che si siano anche divertiti molto. E dell'Italia racconta i luoghi quasi senza farli riconoscere. Ci sono poche cose riconoscibili, ma ci sono invece, c'è questa ricerca compositiva molto, quasi pittorica. Poi invece dagli anni 50 in avanti si capisce che vede l'Italia ed è affascinato da un lato sicuramente da tutti quegli elementi che affascinano qualsiasi straniero. Quindi gli spaghetti, le gondole, la grande arte, sono tutte cose che ci sono in queste fotografie, anche perché sono fotografie che venivano fatte per i giornali. Dall'altro credo sia molto affascinato dalle persone, e infatti il mostro lo si vede molto bene, abbiamo addirittura una sequenza in cui ci sono solo delle figure singole. Credo che fosse molto affascinato dalla gestualità, dai movimenti dei corpi, che sono davvero poi diversi rispetto a quelli di altri posti. Teniamo conto che lui era un romano, quindi insomma c'è un altro modo anche di gesticolare in Normandia. Perché ho scelto gli Air? Me lo sono chiesto più volte. Beh, perché sono francesi. No, non mi basta questa spiegazione. Ho scelto gli Air perché nelle sonorità che state ascoltando vi è una chiara presenza di cocktail music. Quelle sonorità anni 70 definite easy listening, portate da grandi autori italiani, da Morricone in primis e tanti altri. E questo dialogo tra gli anni 70, l'elettronica, il pop, il contemporaneo mi ha appunto tra Henri Cartier-Bresson e l'Italia, ho detto probabilmente la colonna sonora più attinente. Love, beh, love ce n'è tanto in una fotografia che è un abbraccio estremamente sensuale tra André Pierre de Mandragée, giovane poeta e scrittore, e la compagna Leonor Fini. Ed è di una sensualità quella foto, secondo me, ricordando che Bresson non è certamente un fotografo che dà questo aspetto, però sa cogliere tutto e anche dove, diciamo, non vuole dare attenzione, è chiaro che un talento così la porta. Perdonate questa mia divagazione, ma c'è un nudo che è l'unico nudo nelle fotografie esposte a Palazzo Roverella, ma vale veramente un'importanza di tutta una sezione. È un nudo sul bagnasciuga di Leonor Fini, donna non certamente con le bellezze da fotomodella, ma di una sensualità particolare. Ci ricorda veramente cosa cerchiamo quando vogliamo un bello così originale. Non so perché, ma mi sono soffermato a lungo su quella fotografia. E beh, vabbè, io sono sempre il primo a dichiarare la bellezza maschile, ci mancherebbe, però insomma in questo caso ho ceduto, è venuta fuori tutta la mia curiosità, interesse e attrazione per un corpo ripreso in maniera veramente stupenda. Potevo chiedere, Anna, quanto costa quella foto? penso che insomma è un po' qualche soldino costa. Mi hai visto di sì. Temo. È stato definito l'occhio del secolo, sì, esattamente. Pensate che arriva giovanissimo nella nostra penisola, infine ottiene il permesso di andare per analizzare, per averne ispirazione ulteriore. Resto colpito dal fatto che anche nell'immagine, oltre che nelle dichiarazioni del curatore Walter Guadagnini, che ringrazio ancora una volta, resto colpito dal fatto, uno si immagina l'Italia giustamente, per carità, bellissima, dei monumenti, degli aspetti in cui è riconoscibile il luogo. Lui riesce, attenzione, perché questa è una particolarità fondamentale, ho avuto la fortuna di ammirare e riammirare l'esposizione a Rovigo. Allora, lui riesce a farti capire dove si trova senza riprendere delle caratteristiche particolari e tipiche del luogo che vuole ritrarre. Come lo fa? Con le persone, con gli atteggiamenti, con la microsensazione. È per quello che lo definisco il più grande, perché avere questa capacità, oltre a farti amare la fotografia, ti dà anche motivo di apprezzare questo dono innato di saper comunicare. Cioè lui ti fa rendere conto del momento in cui si trova e del luogo in cui si trova senza esserne così esplicito. Ok, alle spalle ho la Fontana di Trevi, ok, alle spalle ho la Torre di Pisa. No, però tu capisci perfettamente che è in Toscana o che è a Roma e non solo, anche in tanti altri luoghi, soprattutto nell'Italia meridionale, dove ha trovato un'ospitalità che lui stesso ha detto veramente qua la gente è molto ospitale. E per quanto riguarda la relazione con l'arte figurativa e pittorica, beh, in questo brano di conversazione ne sapremo di più. Probabilmente questo viaggio e questa esposizione rivela come il binomio Italia-Bresson e aspetti legati alla figurativa e pittorica espressione siano andati a braccetto. Sì, senza ombra di dubbio. Fra l'altro ci sono anche racconti di Mandiarga sul fatto che loro erano amici da quando erano adolescenti e lo rimangono sostanzialmente tutta la vita. E in uno dei suoi diari Mandiarga racconta che una delle poche volte in cui litigarono fu a causa di, era meglio Venezia o Firenze, perché pare perché Cartier-Bresson non amasse la pittura veneta, dice Magliardi. Glielo perdoniamo. Sì, questo glielo possiamo perdonare. Però senza dubbio è anche interessante vedere in tutto questo come poi Cartier-Bresson faccia molta attenzione a quello che una volta si sarebbe chiamato il contenuto delle sue fotografie. Non è un caso se l'ultima sala, quella dedicata agli anni 70, è una sala nella quale ci sono manifestazioni operaie, c'è la vita della fabbrica, cioè Cartier-Bresson sapeva molto bene in che mondo si muoveva, anche in Italia. L'impegno sociale. Sì, senza dubbio c'è, è proprio una caratteristica che si percepisce immediatamente. Fino a che sono gli anni 50 e 60 è un'Italia, insomma, che si riconosce, l'Italia che esce dalla Seconda Guerra Mondiale, poi c'è anche un po' di Italia del boom, perché ci sono delle scene anche abbastanza comiche, quasi da commedia all'italiana, per l'appunto. Per l'appunto. Però poi invece il lavoro degli anni 70 è tutto un lavoro, anche perché lui aveva committenze dalle industrie, però ad esempio, ecco, visto che citiamo sempre Venezia, l'ultima serie su Venezia è la serie di una manifestazione in città, evidentemente, immagino, legata a Marghera, dati gli anni, che insomma cambia radicalmente, altro che gondole. Le manifestazioni operaie in quel di Marghera, ne dà immediato riconoscimento del luogo, altro che riprendere gli aspetti più immediati, no, va in profondità, lo fa con una grandissima estetica che va dall'impegno sociale a una forte ironia, a una voglia di conoscere anche negli aspetti più ludici, e un'estetica straordinaria. Non dimentichiamo che Henri Cartier-Bresson, come tutti i fotografi, non amava essere fotografato, non amava essere ripreso, e viene sempre coinvolto in tutto ciò di nascosto o ripreso di spalle. Vi è un documentario in conclusione dove avremo poi invece la possibilità di ritrovare il protagonista in questi frame riportati a Palazzo Roverella, una delle mostre, e ne siamo molto onorati di dare questo spazio alla sede rodigina perché lo merita, e come, è una delle mostre più belle che ho visto nel tempo recente, ecco. Fatica a uscire perché la voglia di vedere e rivedere, cercare le cartoline, i gadget per tenerne ricordo, è un bellissimo catalogo fatto con una curatela di attenzione molto forbita e particolare. Eterogenea quindi la mostra, l'approccio e soprattutto una mostra corposa. Quante opere in mostra e la provenienza? Allora, le opere sono 160, è giusto dire opere perché le foto credo siano più o meno 140, ma abbiamo voluto dare la stessa importanza, dove ci sono ovviamente anche alle riviste, quindi le riviste non sono come sempre messe nelle teche come si fa di solito, ma sono proprio appese a parete, per far capire anche come in realtà poi il pubblico di quegli anni vedesse la fotografia così. Certo. Non erano i musei, non erano le gallerie che facevano vedere fotografie, se non raramente, erano i giornali, quindi questo è molto importante. La provenienza, beh, quella è la più facile, ovviamente vengono tutte dalla Fondation Cartier-Bresson di Parigi, e abbiamo curato la mostra insieme a Clément Charroux, che è il direttore, è un grande storico della fotografia, in questo momento è anche il direttore della fondazione. E per quanto riguarda un percorso in mostra, lo riassumiamo, divisione in sezioni? Divisione in capitoli, è una mostra leggibilissima perché è cronologica, quindi si parte appunto da questo famigerato primo viaggio del 32 e si arriva agli ultimi dei primi anni 70, e all'interno di questa suddivisione cronologica ci sono i capitoli dedicati appunto agli anni e ai luoghi. Si troverà molta Roma, perché lui è stato e ha fotografato molta Roma, e tanta Basilicata, Lucania, che sono luoghi che negli anni 50 avevano una densità di fotografi credo pari a non si sa quale altro luogo possibile del mondo. E invece negli anni 70, anche questo è molto interessante, lui ritorna a fotografare le stesse cose e ovviamente le trova cambiate, gli stessi luoghi, e quindi li trova in alcuni casi simili, in altri cambiati. Grazie a te, Daniele. Grazie a voi. A volte sfuggono dei particolari, poi parlando con curatori e storici dell'arte, studiosi, diventano più evidenti. In effetti la possibilità di ammirare gli scatti e le immagini arrivavano su pubblicazioni e riviste, non esistevano ancora modalità espositive, anzi e ne era una fortuna riuscire a ritrovare, magari anche a ritagliare questi scatti o tenere e conservare la rivista o il quotidiano, la pubblicazione editoriale che dava spazio a questi immensi talenti come Henri Cartier-Bresson, che sarà fino al 26 gennaio 2025 a Palazzo Roverella in quel di Rovigo. Ultimo brano in playlist, You Make It Easy. Tu riesci a comunicare in maniera facile, tu riesci non a farla facile, ma sicuramente a dare un motivo di trasmissione, beh, facile. You Make It Easy, loro sono gli Air, la voce è di Beth Hirsch. Vi propongo questo brano che ascolteremo per qualche minuto, dopodiché la linea andrà all'Edipeo Enciclopedico. Anna, allora, William, questi viaggi tra le immagini, tra il sud-est asiatico, in una ricca rubrica in mostra che tornerà giovedì prossimo, dobbiamo dividerci un po' i compiti, perché insomma non posso seguire tutto, e giustamente e fortunatamente ho trovato una compagna di viaggio assolutamente ricca di curiosità e capacità di approfondimento notevole, per cui grazie Anna. Grazie a te, è un'ottima opportunità, grazie a te, grazie a voi. Anche domani ti tocca la levataccia, perché ormai sei esperta del continente asiatico e quanto mai esteso. Abbiamo parlato di Cina, oggi di sud-est asiatico con Myanmar. Domani con in scena danza indiana, per cui oggi ti ho già dato questa. Ma dopo infatti ho un corso di ballo indiano. Eh certo, devi. A voi un buon ascolto, un buon giovedì, domani alle ore 7, mi raccomando, puntuali per il Breakfast Club. Oggi la prima puntata della stagione di This is a Rock and Roll Radio con Andrea Gozza e Angela Zocco, dalle 10.30 alle 12.30. Nel palinsesto mattutino, in seguito all'Edipeo, ci sarà Liberi Dentro, rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30 per le mattiniere e i mattinieri dei 103.1, la colazione è Breakfast Club. Domani venerdì, vigilia di weekend, in scena alle ore 7. Ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao. A tra poco. Ciao. Blessings are deserved by the trust that